senza te non potrei mai attraversare il blu, ma non so se di là tu sarai ancora tu, dentro i tuoi fiori nell'infinito, con le tue danze nel carillon. Senza te non saprei mai volare di più, e lo so che lassù sarà diverso il blu, dentro i tuoi libri, nelle poesie, in ogni stanza un carillon. Gira la chiave accordare re mi e fa, e tra i fiori quelli strani mi piacciono di più, dentro le stanze indefinito il dolce suono del carillon. Senza l'aria dei tuoi occhi non potrei amare di più, tra le foglie quelle scritte non fuggiranno mai, in mezzo ai rami come una brezza, le gemme strate del carillon.